24 mattino. Sono le 7:21 minuti, un saluto da Gigi Donelli, questa mattina al microfono, da Peter Bescapè in regia. Chi guadagna e paga le tasse non è un peccatore, va guardato con benevolenza, non con invidia. Queste alcune, diciamo la frase, forse il passaggio più riportato questa mattina del ministro più ricco del nostro esecutivo. Parliamo a partire dalle 8:30 circa di tasse, di lotta all'evasione, di meccanismi, di strumenti che a volte vengono anche a trovarsi al centro di discussioni piuttosto vivaci. Uno di questi per esempio è il cosiddetto 117, nel senso che è il numero della finanza dove tra l'altro si possono denunciare appunto i commercianti che non rilasciano lo scontrino, si possono fare una serie di comunicazioni riservate. Ne parleremo tra l'altro con il capo della centrale operativa del Comando Generale della Guardia di Finanza per sentire soprattutto se come i comportamenti degli italiani stanno cambiando in questa direzione, in questo senso, in un momento peraltro in cui non possiamo non notarlo, il presidente del Consiglio dei Ministri Mario Monti tende sempre di più a legare il recupero del sommerso alla possibilità di sgravare appunto almeno in parte dalle tasse chi regolarmente paga, e in qualche modo nel 117, in questo numero, c'è una sorta di momento di congiunzione tra questi due aspetti. Parleremo anche, lo faremo con un militare questa mattina, con un generale già capo di Stato Maggiore della Difesa, della vicenda indiana. Gli aggiornamenti li avete sentiti, li risentiremo attraverso GR24, ma certo intorno a questa storia permangono alcuni dubbi, alcune questioni legate anche a una sorta di ambiguità generale, forse storica, che il nostro paese ha nei confronti delle operazioni militari all'estero. Insomma, un paese così pacifico per natura, eppure presente nel mondo, e quando si tratta di essere presenti con le forze armate poi c'è la sensazione, qualcuno sospetta, che di fronte ai problemi i militari poi vengono lasciati di fatto a gestirsi i problemi da soli. Ne parleremo più tardi. Ora naturalmente, come di consueto, apriamo la nostra edicola del mattino. Nuove detrazioni per le famiglie, l'apertura del Sole 24 Ore di questa mattina. Dunque Monti, per il calo delle tasse bisogna aspettare il pareggio di bilancio, forse prima del 2014. Venerdì, ricorda appunto il Sole, il Consiglio dei Ministri, il decreto fiscale. Da una parte questo grande tema, a centro pagina abbiamo citato i redditi 2010 dei ministri, questa novità schierata, qui ci sono 17 nomi, cognomi, ruoli e cifre, naturalmente a partire da Mario Monti, Presidente del Consiglio, 1,5 milioni, fino al 17esimo Andrea Riccardi, Ministro della Cooperazione, 120 mila euro l'anno. Dappertutto dunque l'informazione, la pubblicazione, come appunto il governo Monti aveva promesso, una novità, al di là poi di tutte le considerazioni che vedremo emergono intorno a questa comunicazione, la novità di una trasparenza. Già qualcuno si chiede, questo diventerà un modello, diventerà obbligatorio anche per i prossimi governi ripercorrere questa modalità, rispettare questa forte affermazione di trasparenza? Vedremo, ma restiamo sulla prima del Sole. L'altro tema, Confindustria, il sindacato non protegga i fannulloni, Camusso dice sono parole offensive, dunque botta e risposta con la CGIL sull'articolo 18. Emma Marcegaglia dice vogliamo poter licenziare le persone che non fanno bene il proprio mestiere, gli assenteisti cronici, fannulloni. La presidente degli industriali ha aggiunto che vorremmo avere un sindacato che lotta per tutelare i propri lavoratori, ma anche un sindacato che non protegge gli assenteisti cronici, i ladri, quelli che non fanno il loro mestiere. Secca la replica della leader CGIL Susanna

di Avvenire, Giorgio Ferrari, racconta come sia sufficiente allontanarsi dalle grandi città come Atene, Corinto, Salonicco e Volos, e la crisi, la bancarotta, la scure selvaggia delle banche creditrici, l'occhiuta vigilanza della Troica diventano solo minacce remote e fantasiose, come il bestiario di Senofonte nell'Anabasi. Ma insomma, in una Grecia ostinatamente arcaica, le uniche attività sono l'agricoltura e il turismo. La crisi non esiste, non esistono nemmeno gli scontrini, non esistono tante di questi, diciamo, elementi, fattori e anche tensioni che invece a Atene così fortemente vengono vissute e raccontate in queste settimane. 24 mattino. Ancora un buongiorno da Gigi Donelli, questa mattina al microfono con Peter Bescapè in regia, Viola Bottoni, Elisabetta Fusconi, Miriam Lucchetti nell'assistenza al programma. Dunque, linea dura degli indiani, processeremo i due militari. Vi ho anticipato questa la vicenda di cui parliamo per qualche minuto, ma attenzione, se da una parte esiste questa sintesi di un titolo che vi ho preso oggi dal giornale, dall'altra esiste un approccio sostanzialmente speculare. Perché? Prendiamo Times of India, uno forse il principale website in lingua inglese del subcontinente indiano, e la posizione, il titolo è Italy slams Indian Police Force, quindi è l'Italia che colpisce le forze di polizia indiane per aver arrestato le guardie navali. E per quanto riguarda il titolo del video, ovviamente la televisione, il sottopancia che dell'ultimo servizio inviato, è un chiarissimo Italy contro India. Insomma, questo è anche uno degli aspetti di questa vicenda. Un altro aspetto è quello della sorda rabbia del San Marco, come racconta per esempio questa mattina il Giorno in un racconto fatto a Brindisi tra i commilitoni dei fucilieri arrestati. Allora, per capire di più di questo aspetto e anche delle ragioni della presenza dei militari italiani a bordo, abbiamo invitato questa mattina il generale Mario Arpino, ex capo di Stato Maggiore della Difesa. Buongiorno generale, grazie di essere con noi. Buongiorno a tutti. Allora generale, innanzitutto la sorda rabbia di San Marco. Perché sorda rabbia? Cosa accade nell'ambiente militare in queste ore rispetto a questa vicenda? Sì, appunto, io distinguerei tutta questa faccenda in due momenti. Una è l'emergenza immediata, la cosa da cui si cerca di uscire in questo momento, e ha comportato, non dico il San Marco, ma tutte le forze italiane sotto ludibrio, le ha spinte nel ridicolo, e il San Marco, che è uno dei simboli migliori della capacità e della professionalità delle forze armate italiane, ben a ragione se ne duole. Però io risalirei anche un po' a monte, vedrei perché e che cosa ci ha portato a metterci in queste condizioni che hanno messo un po' nel sacco in questo momento, oltre i nostri soldati, cui rivolgo sempre il mio pensiero più deferente con la più grande ammirazione, anche tutta la diplomazia italiana, ecco, l'Italia in particolare. Vorrei parlare un po'. Generale, cosa ci ha portato? Innanzitutto chiariamo un punto: perché i militari sono a bordo delle navi? Perché non tutte le navi, appunto, non tutte le nazioni fanno questa scelta. L'Italia invece non prevede contractor, non prevede privati, ma militari. Ma io credo che derivi tutto un po' da lì. C'è stato, io seguo questa questione un po' di tempo, e quando è cominciato questo fenomeno della pirateria anche nei riguardi di navi italiane, 2007, 2008, 2009, c'è stata una grossa spinta degli armatori perché il governo provveda in qualche modo. Ma gli armatori non chiedevano assolutamente di avere dei militari a bordo, gli armatori chiedevano di poter fare, come altre nazioni, affidamento su dei contractor a bordo. Ora, la legge italiana, questo sembra che non lo permetta, e è servita una legge ad hoc, e questa legge è la legge 2011 dell'agosto 2011, la legge 130. Ecco, questa legge consente stranamente ai militari di prestare questo servizio. Ecco, quindi, stranamente, anche se non siamo l'unico paese che lo fa. Non siamo l'unico paese, perché lo fa anche la Francia, lo fa anche la Spagna, però lo fanno sui pescherecci d'altura, non lo fanno su tutto il naviglio. La maggior parte dei paesi sta usando i contractors, che naturalmente impegnano di meno lo stato di provenienza di quanto lo possa impegnare una forza militare che rappresenta l'Italia, che è... l'Italia. Generale, come si è arrivati però a diciamo dall'evento, quindi ricordiamo, poi ci sono due pescatori morti, a quello che oggi sta effettivamente diventando anche un caso tra Italia e India? Perché i militari italiani sono stati consegnati a terra? Ed è giusto che sia stato così? È una cosa da capire, perché io non ho nessun motivo di ritenere che non fossero in acque internazionali, quindi è tutto da capire perché sono stati portati in acque internazionali dal comandante la nave, su ordine di chi e su ordine di chi siano stati fatti sbarcare. Io vorrei ricordare che la legge prevede esplicitamente che per quanto riguarda il loro compito di istituto, perché ormai essendoci una legge di compito di istituto si parla, questi marinai, questi militari a bordo non sono dipendenti dal comandante della nave, quindi però in qualche modo, ecco, noi abbiamo fatto una legge che ha reso dei nostri militari ostaggio di qualcosa, di qualcuno. Io credo che questa legge andrebbe rivista. Ora abbiamo un ministro della difesa che queste cose le conosce molto bene e penso che cercherà, farà di tutto per emendare a monte questa possibilità che fatti del genere si ripetano. Insomma, da una parte abbiamo delle operazioni che sono complesse per definizione, dall'altra, in un periodo in cui si fa un gran parlare di semplificazioni, questo sembra non valere per le operazioni, per cui del personale militare si trova a bordo di una nave civile con un comando che è distante. Ecco, la questione dunque secondo lei è, si deve chiudere, direi che l'ha detto piuttosto chiaramente, questo percorso, aprirne un altro, anche se in questo modo poi si rischia magari di prendere le distanze da una protezione che militare significa anche impegno del governo, insomma bisogna cambiare davvero strada. Ma sicuramente bisogna intanto risolvere questa questione e io spero che il buon senso porterà a risolverla. Poi forse anche emendare la legge facendo in modo che questo caso non si debba più ripetere. Io vorrei ricordare che è previsto anche l'uso di contractors da questa legge, ma è subordinato a un decreto che avrebbe dovuto essere emesso, non so se sia stato emesso da parte del Ministero degli Interni in concerto con il Ministero della Difesa, che prevedeva tutte le modalità di svolgimento del servizio da parte di questi contratti civili, ivi compreso l'uso della custodia delle armi. Ora non so se questo decreto sia stato emesso e se quindi al momento sia autorizzato o meno l'uso di contratto, ma è questo che all'inizio avevano chiesto le compagnie di bandiera, le compagnie battenti bandiera italiane. Infine una battuta, c'è la sensazione da parte appunto di chi veste la divisa di essere tanto utile nelle parate, nei momenti retorici e poi mollati quando ci sono dei problemi, oppure sono solo diciamo sfoghi raccolti da giornalisti? Ma sì, ora tutto questo naturalmente dispiace, questo è diventato un caso mediatico che se anche si risolverà il danno che è stato apportato all'Italia in termini di prestigio e alle forze armate italiane, quindi a tutta l'Italia, difficilmente si risolverà. Noi sappiamo esattamente che anche una soluzione, una risoluzione positiva del caso, una discolpa diciamo ai nostri militari, non avrà lo stesso effetto mediatico di quanto lo abbia avuto questa incriminazione. Grazie al generale Arpino, lo ricordo, già capo di Stato Maggiore della Difesa, per essere stato con noi. Ovviamente continueremo a seguire la vicenda. Ora voltiamo pagina, basterà una chiamata al 117, comunicare le proprie generalità, il commerciante che non ha emesso lo scontrino fiscale entrerà automaticamente nelle liste selettive, ovvero quelle liste alle quali attingere per gli accertamenti fiscali. L'accertamento diverrebbe automatico in tempi strettissimi. Queste tra le novità previste in parte e in attesa di essere rafforzato di fatto in settimana dal governo. Partiremo proprio da qui per fare il punto con i nostri ospiti anche su quel tema dell'evasione, ma anche della riduzione del carico fiscale che proprio il premier Mario Monti ha affrontato più volte, a dire la verità, nelle scorse ore. 24 mattino. Ora basterà una chiamata al 117, comunicare le proprie generalità, il commerciante che non ha emesso lo scontrino fiscale entrerà automaticamente nelle liste selettive. Dunque il 117 è il numero della Guardia di Finanza che noi abbiamo composto questa mattina per chiedere il contributo appunto a questo nostro racconto del colonnello Michele Dell'Agli, che è il capo della centrale operativa del Comando Generale della Guardia di Finanza. Buongiorno colonnello. Buongiorno a lei e ai suoi radioascoltatori. Allora, una prima precisazione: 117 e il numero c'è, ovviamente. La modalità, diciamo, per la comunicazione del commerciante che non emette lo scontrino fiscale è già presente? Sì, è una funzione che già il 117 assolve. E i cittadini possono già ora chiamare il 117, ma anche in passato è stata attivata questa funzione, e risponderà la sala operativa del comando provinciale competente sul luogo da cui proviene la chiamata. Quindi il cittadino che chiama avrà in linea la sala operativa del comando provinciale del luogo dove si trova. E come funziona? Si dice: buongiorno, io sono Gigi Donelli e voglio segnalarvi che nel tal negozio eccetera sono andato e non mi hanno dato lo scontrino, così? Sì, la segnalazione avviene in questa modalità telefonica, previo riscontro da parte del nostro operatore di sala operativa dell'identità del cittadino che chiama. Quindi nessuna forma anonima, intanto? Nessuna forma anonima per questo tipo di segnalazioni, soltanto il cittadino che viene identificato dall'operatore potrà avere trattata la sua segnalazione. Dopodiché che cosa accade? Voi acquisite un'informazione, che naturalmente può essere vera ma anche no, e? La segnalazione ha due modalità di elaborazione. La prima può avvenire con un intervento immediato di una pattuglia, qualora il cittadino lo richieda e sia possibile effettuarlo in funzione delle condizioni di situazione. Ovvero la chiamata viene rielaborata in un momento successivo, previa però formalizzazione da parte del cittadino in atto ufficiale della segnalazione. Colonnello, come sa, credo, perché immagino che li seguiate anche dalla Guardia di Finanza, sul blog impazza un po' questo dibattito: cos'è, diventa una caccia alle streghe, qualcun altro dice appunto già in fondo la vita degli altri, il sottotitolo che abbiamo messo questa mattina implica questo diciamo dubbio sull'intromissione nelle vite degli altri. D'altra parte dice: come no, pagare tutti per pagare meno, non solo i commercianti, tutti quanti. Il 117 impariamo ad usarlo e sempre. C'è un grande dibattito in corso che già immagino sia un primo risultato, ma mi parli un po' di numeri. Questo numero viene già utilizzato e in che quantità? Sì, il numero viene molto utilizzato, abbiamo un numero significativo di chiamate al 117, devo dire in crescita anche nel tempo, già rispetto al 2011, rispetto al 2010 c'è stato un incremento del 50% quasi di chiamate. Ecco, ma da che momento, mi scusi, stiamo parlando di pieno effetto Cortina in poi, cioè da Natale, degli ultimi due mesi scarsi? No, ecco, il dato che le dicevo era quello annuale. Se andiamo invece al dato relativo al trimestre, diciamo da novembre 2011 a gennaio 2012, con il corrispondente dell'anno precedente, questo valore di incremento momento è sensibilmente più alto e raggiunge il 75% per il totale delle chiamate, ma poi se andiamo alle chiamate relative all'evasione fiscale, quindi a questo specifico tema, l'incremento rispetto all'anno precedente è del 230%. Insomma, effetto Monti, chiamate, effetto Cortina, chiamiamolo come vogliamo, effetto in corso. Colonnello, prima di lasciarla, so che lei è stato molto gentile a dedicarci qualche minuto, una domanda. Lei avverte nel suo mestiere che qualcosa sta cambiando nel clima culturale dell'Italia rispetto all'evasione, ovviamente? Anche i dati dei contatti al 117 confermano e ci fanno pensare che effettivamente i cittadini hanno una maggiore consapevolezza dell'importanza della contribuzione allo Stato, quindi dell'importanza della lotta anche all'evasione fiscale. Certamente osserviamo che c'è maggiore attenzione e che maggiore consapevolezza che evadere il fisco è un danno per tutti. Insomma, consapevolezza è un misto di maggiore paura, dico io, forse tutto questo contribuisce a un cambiamento. Grazie al colonnello Michele Dell'Agli, lo ricordo, capo centrale operativa del Comando Generale della Guardia di Finanza. 8:45 e 36 minuti, dunque il 117 abbiamo sentito dal colonnello Michele Dell'Agli, funziona e come, funzionava anche prima, ma insomma il dato è molto chiaro, l'effetto Monti è forte, i numeri, le comunicazioni, le denunce si moltiplicano e d'altra parte sembra che il Presidente del Consiglio, come dire, giochi quasi come un pilota di rally con passo, tacco punta per quanto riguarda la questione della fiscalità, quando parla anche di un fondo alimentato con i soldi recuperati dall'evasione destinati a alleggerire il peso portato da chi paga le tasse. Insomma, tirare fuori il fisco evaso significa risparmiare per tutti. Questo il messaggio di cui parliamo con i nostri ospiti questa mattina. Il professor Paolo Moretti, consigliere del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, che in questo momento non abbiamo in onda, ma arriva subito. Dino Pesole, collega del Sole 24 Ore, diceva, ha scritto molto di fiscalità. Buongiorno Dino, innanzitutto. Insomma, io dico, ho visualizzato davvero una guida da rallista, l'idea che si associ il recupero all'immediata riversamento su chi paga è forte e credo che colpisca. Certamente è la vecchia questione, cioè nel nostro paese il prelievo è decisamente sperequato perché pesa in misura abnorme su chi non può sfuggire e invece c'è una larga fetta di contribuenti, 120 miliardi l'anno, queste sono le stime attuali, sfugge al pagamento delle tasse, ma la lotta all'evasione è questione complessa perché da un lato certamente occorre potenziare gli strumenti repressivi, su questo non c'è dubbio, quindi va benissimo tutto, però al tempo stesso occorre far funzionare gli strumenti che già ci sono, perché molto spesso noi, come se scoprissimo all'improvviso che esistono da anni nell'ordinamento strumenti come il redditometro, ad esempio, che è uno strumento fondamentale per accertare la posizione patrimoniale complessiva di ogni contribuente al di là poi del suo reddito. E c'è da anni e quindi quello che conta è la volontà politica di farlo funzionare. Volontà politica che ora però sembra molto precisa. Certamente c'è stato un cambio di marcia con il governo Monti e con le misure che il governo Monti ha inserito nella manovra cosiddetta Salva Italia, ma io insisto su un punto, non basta l'attività repressiva, cioè quello che forse si sta cogliendo in questi giorni è un inizio, credo io, di mutamento di clima indotto per gran parte dalla crisi, perché ovviamente quando la crisi comincia a mordere sul serio, molta gente è indotta a mutare il suo atteggiamento rispetto a quanti venivano invece fino a due giorni fa o a un mese fa ritenuti dei furbi da emulare in qualche modo, perché questa è stata l'evasione nel nostro paese per anni. Un modello anche culturale a cui ispirarsi. Certo, e quindi questo è l'altro passaggio, però per questo ci vorrà del tempo, che dovrà cambiare nel nostro paese, accanto al potenziamento dell'attività repressiva e al far funzionare veramente gli strumenti che ci sono. È un mutamento di clima, questo è molto più complicato perché, come sappiamo, l'Italia non è veramente in cima alle classifiche mondiali quanto, come dire, a coscienza civica. L'Italia non è quel paese in cui le tasse si pagano sorridendo, rappresentato nei testi di economia classica sull'Olanda di un tempo. Professor Paolo Moretti, buongiorno. Buongiorno. Ecco, l'abbiamo recuperata, i telefoni ogni tanto cascano, succede. Sì. 117, cosa ne pensa in una battuta intanto della comunicazione, appunto denuncia di chi non rilascia lo scontrino? Non sono molto d'accordo perché ho paura che qui si crea un problema tra contribuenti, tra soggetti che diciamo che non sono nemmeno contribuenti, e credo che una misura eccessiva, perché poi se noi non diamo più fiducia al cittadino per pagare le imposte, cioè nel senso senza essere effettivamente poi molto molto danneggiato da un fatto che chiunque lo può denunciare, credo che questo si crea un problema enorme, si crea sfiducia verso le istituzioni. Io credo che, ecco, questo punto qui non sono molto favorevole. Ecco, ovviamente, come diceva Dino Pesolo, è un percorso lungo, è un percorso che al di là delle iniziative come questo, insomma, richiede percorsi lunghi. Che contributo possono dare i dottori commercialisti? Perché, insomma, diciamola in maniera esplicita, la percezione anche è che il vostro mestiere sia molto spesso anche quello di trovare tutta una serie di escamotage all'interno del sistema della legalità per ridurre il peso, appunto, della fiscalità. Voi che comunicate costantemente con chi deve pagare avete un ruolo. Pensa che ci sia anche una posizione diversa, nuova, per affrontare il futuro? Guardi, le dico subito, noi commercialisti svolgiamo un delicato ruolo, comunque svolgiamo un ruolo di interesse pubblico. Certo. E noi non sicuramente favoriamo gli evasori. L'unico problema che noi abbiamo, ed è un problema grosso, però è un problema di legislazione, è che il nostro sistema tributario non è un sistema che dà certezza sulle cose. Io le potrei dire tante cose su questo punto. No, è chiaro, c'è un sistema che produce, che genera ambiguità. Assolutamente, qui tra le tante cose, oggi se questo sistema non ci si mette mano e non si corregge al più presto, cose che io ho già fatto presente, sicuramente non possiamo andare nel futuro e creare un po' quella fiducia e dire al cittadino: ho fiducia, quindi pago volentieri l'imposta per avere poi i servizi e so che ciò che pago chiaramente è a favore di tutti. Perché se noi quindi richiede una stabilità anche di indirizzo e azione costante del tempo, il nostro sistema invece, così come ancora è fatto, diciamo crea inoltre una grande incertezza. E poi diciamo che questo rapporto tra amministrazione finanziaria e contribuente è un rapporto difficile, secondo me. Questo rapporto, cioè l'amministrazione finanziaria, deve tornare a quel ruolo che poi le è stato delineato dalla Costituzione, cioè deve essere controparte del contribuente alla ricerca del gettito, ma quale organo chiamato ad applicare la giusta imposta? Che significa applicare la giusta imposta? Poi si deve tutelare il legittimo affidamento del contribuente, cosa che qui non c'è. Teniamo presente che noi, per poter a volte interpretare la legge, è difficile perché vede quello che sta succedendo al problema dell'abuso del diritto. Lei sa che benché c'è una norma, ci sono norme perlomeno che sì, devono essere interpretate. E il fatto che il contribuente risparmi dell'imposta, ma giustamente, poi certo, non deve essere invece, una volta accertato, e per l'amministrazione finanziaria questo non è il pagamento della giusta imposta. E inoltre poi, chiaro. Mi scusi, professor Moretti, siamo verso la conclusione. Insomma, il tema che lei pone fortemente è quello della complessità e della semplificazione. Dino Pesole, vorrei concludere appunto su questo aspetto. Di fatto non è molto diverso da quello che dicevi prima, c'è una complessità enorme in cui navigare. Sì, certo, la complessità è un dato di fatto, certamente semplificare il sistema è fondamentale, secondo me è fondamentale ricostruire anche nel tempo un rapporto, come dire, gli inglesi la chiamano compliance, cioè di adesione spontanea, e questo è un altro processo molto lungo. E poi secondo me l'altro aspetto decisivo è che la pressione fiscale ormai è arrivata nei dintorni del 45% del PIL. E questo 45% del PIL, grazie a Dino Pesole, siamo in conclusione, ci risentiamo domattina, grazie agli ospiti.